ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ha visto il mondo e gli è scoppiato il cervello. Quando Tommaso Buscetta decise di raccontare a Giovanni Falcone Cosa Nostra dall'interno, era questo ciò che di lui circolava a Corleone, che fosse impazzito. Di boss che si fingono Napoleone, che invocano la mamma al momento dell'arresto o che parlano di galeone da guidare è piena la storia delle mafie, infatti. Di pazzi, o meglio, di finti pazzi che danno in escandescenza in rispetto di una ben studiata operazione. Per cui chi è malato di mente non può andare in carcere oppure più facilmente ottiene benefici che permettono di continuare a comandare o di evadere. È il sapore amaro della beffa allo Stato, la storia dei boss sul lettino di Freud, di un esercito di finti depressi, psicotici o anoressici che con perizie compiacenti di medici collusi riescono ad ingannare tutti. Perché se una frattura al braccio, come disse un pentito, la smentisce subito con una radiografia, la malattia mentale no. Ed è della mafia da legare, per dirla col titolo del saggio di Laura Galesi e Corrado De Rosa, che parliamo in questa puntata di A Ciascuno il Suo, dal palco di Trame alla Lamezia Terme, con anche Giuseppe Musarò, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Cerchiamo un po' di sdoganare queste figure raccontando la strumentalizzazione dell'uso della follia per diverse ragioni. Da una parte per evitare il carcere o il 41 bis, triate per sospendere i processi o addirittura per non partecipare ai processi, come nel caso di Totorrina, per esempio. Raccontiamo diverse storie di diverse mafie di diversi territori della Sicilia. Siamo partiti da Palermo, d'obbligo per quello che è successo sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, e poi siamo arrivati fino alla punta estrema di Siracusa, passando per Catania e Santa Paola, diciamo. Le storie sono tante e anche molto divertenti. Sicuramente una storia importante, che è quella che oggi riconosciamo tutti, è quella di Provenzano. Adesso, insomma, la questione è ancora aperta, quindi non possiamo dare dei giudizi definitivi su quello che sta succedendo. Riflettendo un po' sul ritrovamento di Provenzano con un sacchetto in testa, e avendo un po' studiato la sua cartella, tra virgolette, sanitaria, chiamiamola così, e quindi il fatto che lui in alcuni casi ha tentato di strumentalizzare in qualche modo la malattia, sicuramente ci fa pensare. Perché la Cosa Nostra è una mafia che ha molti simboli. Spesso i mafiosi parlano tra di loro attraverso una simbologia. Quando Provenzano venne arrestato, a cavallo tra le due legislature, quando venne eletto Romano Prodi, la notte dell'elezione di Romano Prodi, che noi riteniamo essere una cosa non casuale, perché in quel modo nessuno si poteva attribuire, diciamo, la cottura di un personaggio così importante nella storia della mafia italiana. Provenzano, arriva una lettera a Provenzano da un fatidico cugino dall'America, tale Francesco Provenzano, che diceva in questa lettera di stare, diciamo, di considerare lo stato di salute di questa persona e che bisognava considerare, diciamo, la sua posizione all'interno del carcere, e quindi tenere presente che era una persona malata, perché un po' la conosciamo tutti la storia di quelle che sono state i suoi interventi alla prostata a Marsiglia, eccetera. E Provenzano ha disconosciuto questo cugino. Una delle tante interpretazioni che si potrebbero fare è sicuramente quella che in qualche modo è un messaggio, no? Sappiamo perfettamente quanto, appunto, soprattutto Cosa Nostra parli per codici, per messaggi, e quanto anche l'inganno faccia parte della comunicazione stessa, appunto, di Cosa Nostra, a cominciare dai finti silenzi oppure dalle finte malattie. Se la storia di Provenzano è una storia ancora controversa, ancora poco chiara in questo momento, appunto anche in via di definizione, perché pare che sia incapace in questo momento di partecipare ai processi, incapace anche di intendere, il loro libro è una galleria, appunto, anche di boss e padrini non importanti come Provenzano, ma altrettanto nomi celeberrimi della storia di Cosa Nostra, che però hanno utilizzato ogni escamotage delle malattie mentali per riuscire ad avere dei benefici carcerari, processuali. La prima cosa che viene un po' da chiedersi, e la chiedo al dottor De Rosa, è, guardando anche la quantità, no, di casi dove i boss hanno, appunto, approfittato di questa scorciatoia per avere domiciliari o per andare in strutture uscire per in ospedali, per uscire dal 41 bis, è quali sono le malattie mentali più ricorrenti tra questi finti pazzi del mondo di Cosa Nostra? Se ti rompi un braccio c'è una radiografia che ti dice che te lo sei rotto. Naturalmente se fai finta di essere gravemente depresso o non mangi per dimagrire fino a un punto da dover uscire per forza dal carcere e fai finta di essere gravemente anoressico, è difficile che ci sia un riscontro oggettivo come una radiografia o un TAC che te lo dica. Questa è una cosa che ci consente di dire sostanzialmente che è un problema che riguarda trasversalmente i gruppi criminali, e la seconda cosa che ci consente di dire è che è chiaro che il controllo del processo da parte dei boss passa attraverso i quesiti che i giudici pongono ai medici. Cioè, attraverso una perizia si ottengono tre o quattro cose, che sono sostanzialmente il processo, il proscioglimento o la riduzione della pena, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti o capacità grandemente scemata. L'altra è la sospensione del processo. Quando all'alba del processo sulla trattativa Rina e Provenzano, a distanza di 15 giorni, chiedono la sospensione di altri processi, però per patologie che sono la demenza, che è una malattia da cui non si torna indietro, è chiaro che tu capisci che se vale per uno, poi vale anche per gli altri procedimenti. E l'altro problema è quello della compatibilità con il regime carcerario. Cioè, se per malattia tu non sei in grado di essere curato in carcere come fuori, poiché la salute è un bene costituzionale, tu dal carcere devi uscire. Solo che il problema è che quando escono dal carcere, spesso guariscono. Oppure se ne scappano. Qua c'è la storia di Pelle, di Antonio Pelle, che esce, va in ospedale a Locri ed è latitante. Ma è la stessa storia di Walter Schiavone in Campania, che era quello che aveva la villa come quella di Scarface a Casal dei Principi, o è la stessa storia di Carmine Giuliano, che è quello fotografato con Maradona nella vasca da bagno. Le diagnosi naturalmente sono sempre diagnosi che sono di malattie molto gravi, però che sono manipolate. Allora, un disadattamento al carcere diventa una gravissima depressione. Un comportamento che noi potremmo chiamare autolesivo, ma dimostrativo o manipolativo. Mi taglio superficialmente i polsi, oppure inghiotto delle lamette, oppure mi metto i chiodi in bocca a testa in giù con la gomma da masticare in modo che se non si buca la parete dello stomaco, non sono tentati suicidi, ma passano per tali. Un boss che pensa di essere avvelenato all'interno del carcere, magari al centro di una faida, viene considerato affetto da un delirio di beneficio. Questi sono i passaggi strumentali che vengono utilizzati. La madre di questi disturbi è chiaramente l'anoressia, che peraltro è una malattia delle donne, una malattia in cui c'è bisogno di una serie di criteri diagnostici che nessuno di questi boss ha. Eppure Casalesi e tanti altri utilizzano questo criterio, ma di fatto questi non mangiano volontariamente, prendono farmaci che gli riducono per esempio l'appetito e che li fanno dimagrire, e arrivano a un livello tale per cui nessun medico sano di mente lo tiene in carcere. Poi escono e se ne scappa. Si potrebbe dire che Cosa Nostra è il club, diciamo così, dove c'è la più alta concentrazione di uomini con problemi di anoressia. Però adesso, scherzi a parte, altra cosa sono le invece perizie fatte dai medici che appunto diagnosticano la grave depressione, diagnosticano problemi di pazzia. Altra cosa sono quelli che vanno letteralmente di matto, vanno in escandescenza, entrano in aula strillando, sbraitando, così che il giudice a quel punto dispone una perizia. Ma questo pone un altro interrogativo che io giro al dottor Musarò: se loro simulano queste malattie mentali e se, come a volte anche dei pentiti ci hanno raccontato e la storia delle inchieste giudiziarie ha dimostrato, spesso si avvalgono di medici compiacenti, e si torna al discorso dei professionisti, della zona grigia. Un magistrato, una corte, che tipo di armi ha per cercare di verificare, nominare i propri periti per andare a vedere se quella perizia sia autentica o falsa? Io faccio parte della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Non esiste un'operazione di polizia giudiziaria, cioè, per capirci, non esiste un'operazione in cui vengano arrestate 30-40 persone in cui poi non ci sia qualcuno che inizi a manifestare disturbi di questo tipo. In concreto che cosa avviene? Avviene che il soggetto arrestato presenta un'istanza di scarcerazione, afferma di avere in questa istanza delle patologie di natura psichiatrica e a sostegno delle istanze vi è una pila di documentazione spesso risalente nel tempo, spesso precostituita ad hoc per quando potrà servire alla bisogna. Ovviamente questo pone dei problemi seri, anche perché statisticamente il problema più serio era quello che poneva il dottore prima, cioè quello della depressione maggiore. Non c'è neanche bisogno di fare il pazzo, purché si disponga di una serie di certificazioni che noi definiamo compiacenti. Ovviamente dimostrare la falsità di queste certificazioni è tanto più serio quanto più la documentazione di cui il soggetto dispone sia corposa, spesso da fiordi professionisti o da persone ignoranti, come diceva il dottore, magari indotti in errore dalla documentazione precedente. È allarmante sostanzialmente per due ragioni. La prima è che spesso siamo in presenza di un vero e proprio sistema del quale fanno parte fiordi professionisti. Ovviamente evitiamo generalizzazioni che sarebbero stupide e anche ingiuste per la categoria in generale, però bisogna prendere atto che esiste un vero e proprio sistema. Poi c'è il periodo del giudice, che può essere indotto in errore o meno, e poi la tappa successiva, diciamo, sono le cliniche convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. I recenti indagini sia della DDA di Reggio Calabria sia della DDA di Catanzaro si è dimostrato che ci sono titolari di cliniche che sono sostanzialmente al servizio di questo sistema. Il secondo dato, che è quello maggiormente allarmante, è che il problema vero non è che quando escono scappano, come ha detto prima il dottore. Il caso di Antonio Pelle è un caso emblematico. Pelle Antonio, che è uno appartenente alla famiglia Pelle Vottari, quelli coinvolti nella strage di San Luca, che poi ha avuto il suo apice nella strage di Duisburg. Quello aveva ottenuto la scarcerazione per motivi di salute, perché aveva finto un'anoressia sostanzialmente e stava beato ai domiciliari, fino a quando la Procura Generale di Reggio Calabria non ha insistito, non ha ottenuto che la Corte d'Appello nominasse un nuovo perito per valutare nuovamente. Quando escono, tornano sul territorio, tornano a comandare, e rafforza il suo prestigio, perché si fa beffe dello Stato sotto gli occhi di tutti. Tutti sanno che sta benissimo, perché è lui che coordina le estorsioni, gli omicidi, eccetera. E quindi si verifica un fenomeno esattamente inverso. C'è una responsabilità pesantissima di alcuni professionisti. A volte si riesce a dimostrarlo, per rispondere alla sua domanda, lo dice un collaboratore di giustizia, tra l'altro ormai hanno una competenza sconcertante in materia, spesso sono loro a suggerire ai medici quello che devono scrivere nei certificati, per cui la frase "se ti rompi un braccio ti puoi fare una radiografia e si dimostra che non è vero, ma se ti fingi depresso e cerchi di supporto puoi stare una vita a essere depresso", io l'ho sentita con le mie orecchie ed è difficile. Hanno anche chiaramente tutta una serie di propri consulenti a propria disposizione. Per tornare a una cosa che forse il dottore Musarò conoscerà di prima mano, Peppe Pelle da Bovalino chiama il medico del 118, gli dice: "Guarda, io ho bisogno di una certificazione". Il medico gli dice: "Ok, ti vengo a certificare un attacco di panico". Lui dice: "No, io non voglio un attacco di panico, io voglio un certificato di depressione maggiore". Il che significa che intanto loro sanno esattamente quello che devono chiedere, perché sanno esattamente quello che gli serve per ottenere i vantaggi. Ed è chiaro che se ci sono perizie compiacenti, ci sono medici compiacenti. Il meccanismo è proprio quello che diceva il dottore, le certificazioni a cascata. Ci sono stati finti ciechi, perfettamente in grado di prendere la mira e sparare, e boss dati per gravemente malati, poi ripresi a ballare la Macarena. Così come ci sono stati picciotti che dettavano direttamente loro ai medici quale perizia scrivere. Ci sono stati poi anche casi di violenti criminali in grado, in un carcere di massima sicurezza, di spaccare il naso al PM che li interrogava. A ciascuno il suo. Ai tempi del maxi processo li andarono a prendere al nord, lontano dalla Sicilia, i periti che dovevano esaminare i boss rinchiusi nelle gabbie. E come per magia, nelle perizie di professionisti lontani da quell'ambiente, i detenuti diventavano subito persone sanissime, al contrario di quelle raccontate in precedenti rapporti, che li descrivevano invece come depressi, psicotici e malati, e quindi non compatibili col carcere. E ancora una volta la zona grigia dei professionisti, una delle grandi armi di tutte le mafie. Professionisti, compresi i medici, come ad esempio anche l'ultima sentenza contro il clan di 'Ndrangheta Pelle ha dimostrato. Dopo un dottore del 118 e dopo un primario di una clinica privata di Locri, anche il boss Giuseppe Pelle, Gambazza, è stato condannato insieme a moglie e figlio per aver simulato malori al 118 su precise indicazioni. Una profonda conoscenza dimostrano di avere i mafiosi delle malattie mentali, conoscenza perfezionata anche nei soggiorni in passato negli ospedali psichiatrici giudiziari, che nel marzo 2014 dovrebbero chiudere, e che soprattutto in passato sono stati luoghi privilegiati di incontro, come racconta Laura Galesi. E da qui ripartiamo con A ciascuno il suo. inchieste giudiziarie che mostrarono come all'interno di questa struttura avvenissero dei meccanismi illegali a causa della presenza dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto in quella zona, nel Messinese per capirci. Veniva a crearsi, diciamo, un sistema mafioso ben consolidato. Messina, per chi non è siciliano, viene considerata notoriamente la provincia babba, cioè la provincia insieme a Siracusa. Sì, insieme a Siracusa, esatto. C'erano una serie di boss che in un periodo storico preciso venivano messi lì ed erano chiaramente agevolate la presenza di queste persone all'interno della stessa struttura da persone compiacenti. Queste persone chiaramente vivevano in condizioni diverse rispetto a quello che uscì l'anno scorso dalla commissione di inchiesta della sanità. Mangiavano aragoste, vivevano con vestaglie di seta, i loro familiari avevano diritto ad avere degli appartamenti nelle zone limitrofe in modo che potessero andarle a trovare, e soprattutto da dentro questa struttura i boss riuscirono a mantenere rapporti importanti che gli permisero di mandare avanti l'amministrazione mafiosa dei territori. Nino Santapaola, che diciamo governa Cosa Nostra nel Catanese, governa un sistema fatto di imprese prevalentemente, quindi riesce a tenere, diciamo, nero su bianco quello che era tutto l'apparato, diciamo, imprenditoriale del tessuto catanese corrotto, e riusciva da lì a governare e soprattutto a curare anche gli interessi della famiglia, dicendo questo non lo puoi fare, questo lo puoi fare. Le dichiarazioni di un pentito, di Calderone, alla fine dimostravano come Santapaola, malgrado fosse chiuso dentro i vari OPG, continuava a mantenere appunto questo sistema in piedi. Santapaola, da dentro l'OPG, da lì lui fece la richiesta di sana e robusta costituzione per il rinnovo della patente. Vi chiederete com'è possibile questa cosa, e si ritorna sempre al discorso di prima. Se per questo è stato certificato di tutto, anche di boss ciechi che vedevano benissimo, o che ballavano la Macarena, è stato certificato di tutto. Ma se serve ad avere benefici di ogni genere, la follia o finta follia spesso viene utilizzata dalle mafie anche come strumento di denigrazione. Il boss che comincia a parlare subito viene, diciamo, bollata dal resto della famiglia come il pazzo, quello è pazzo, anche e forse soprattutto per le donne vengono fatte passare per pazze, per instabili, che quindi vuol dire che tutto quello che stanno raccontando è privo di qualsiasi oggettività, perché frutto della mente malata. Ecco, dottor Musarò, uso della follia o della simulazione della follia come strumento di denigrazione, è una mia impressione o viene più spesso utilizzata nei confronti delle donne? Sicuramente viene più spesso utilizzata nei confronti delle donne, spesso nei confronti delle donne che hanno il coraggio di fare delle scelte che da un certo punto di vista sono dirompenti, e dall'altro punto di vista sono evidentemente inaccettabili. Quello che si tenta di fare è esattamente questo, cioè rendere totalmente inattendibili quelle dichiarazioni, iniziando a sostanzialmente a sostenere che quelle dichiarazioni spesso sono il frutto o di patologie o dell'assunzione di psicofarmaci. Le donne che ormai sempre più spesso hanno il coraggio di presentarsi davanti a un magistrato, rendere dichiarazioni, accusare i propri familiari, chiedere di essere messe sotto protezione, cambiare totalmente vita, cercano di fare passare per pazze, perché cioè, è una scelta talmente dirompente che la reazione tipica del mafioso è che queste sono pazze. Poi, però questo, diciamo, fa meno paura, fra virgolette, perché spesso sono dei tentativi grossolani. Quello che fa più paura invece è il sistema, che di fatto è un sistema che in Calabria spesso agevola, favorisce l'andrangheta, se lo vogliamo chiamare la cosa con il loro nome. Lovato, il collaboratore di cui parlava poco fa il dottore, con riferimento a una richiesta di un detenuto importante del Catanzarese di essere ricoverato presso una clinica convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, disse sostanzialmente che il titolare della clinica era un uomo che sapeva campare bene, era un uomo di mondo e sapeva come comportarsi con gli amici. Insomma, è un lessico francamente che evoca un sistema, gli amici. Vi posso dire come in un caso è stato dimostrato, il caso di Giuseppe Pelle, il boss di San Luca, da molti anni beneficiava di certificazioni che gli consentivano di stare domiciliari. Noi siamo riusciti a dimostrare la falsità solo perché nel periodo in cui è stato attestato un aggravamento della depressione maggiore, che in teoria avrebbe comportato come ci ha spiegato un medico, che non avrebbe potuto neanche alzarsi dal letto, di fatto aveva un ambientale in casa, una microspia che ci ha consentito di constatare che era lucidissimo, anzi aveva una capacità di memoria, di concentrazione, di collegamento fra i vari argomenti che destava anche una certa ammirazione da parte nostra, perché era una sorta di ministro degli esteri dell'Andrangheta. Eppure ci sono stati fior di professionisti che hanno attestato che aveva una patologia che avrebbe comportato deficit di memoria, tendenza a isolarsi, quando questo riceveva decine di persone ogni giorno, mafiosi, politici, professionisti. È un isolamento selettivo, diciamo così, da far passare per pazzo chi parla, per appunto rendere inattendibile quello che racconta. Francesco, delle reazioni degli altri mafiosi che fanno passare per pazzi chi della loro chi della loro famiglia comincia a parlare, quale te ne viene in mente appunto? Primo confronto fra Gaspare Mutolo e Totò Riina. Totò Riina è scosso perché non può negare di conoscere Gaspare Mutolo, perché sono stati compagni di cella 6 anni. Dice Gasparino: ma tu ricordi tua madre che aveva avuto problemi psichiatrici? Contemporaneamente l'avvocato Fileccia, che è l'avvocato di Riina, presenta alcune perizie sulla mamma, dicendo: se la mamma è matta, è chiaro che pure questo signore che mi accusa delle peggiori nefandezze, anche lui non è che ci sta tanto la testa. Visto che siamo andati indietro nel tempo rispetto alle cronache più recenti, la saga dei Marchese, con due spaccati che sono, devo dire, uno più incredibile dell'altro, Antonio e Giuseppe Marchese di fronte ai magistrati, e uno di questi è proprio Pignatone, ex capo della procura di Reggio, ora a Roma. Ecco, da dove gli era venuto fuori l'idea di Napoleone e del navigante? Viene fuori dal fatto che loro utilizzano quello che per loro è l'immagine della follia, quindi si dice sempre la storia del matto psicotico che pensa di essere Napoleone o chi che sia. E per esempio, quando si tratta di gestire questioni legate ad omicidio in cui ci sono due imputati, dice: chi dei due si può accollare l'omicidio passa per pazzo, così poi ottiene il proscioglimento. Lo dice Bontade a Sinagra, quindi voglio dire, per tornare sempre a quell'epoca. Poi i fratelli Marchese però fanno un'altra cosa. I manicomi criminali a un certo punto si sono stati in quegli anni, cioè negli anni, alla fine degli anni 70 e negli anni poi 80 e più avanti, un acceleratore di conoscenze tra le mafie. Quello che diceva che doveva partire con la nave, dice al fratello Pino: guarda che tu adesso vai nel manicomio criminale di Reggio Emilia, là conoscerai un personaggio un po' bizzarro, però è molto importante che tu ti ci metta d'accordo, ed era Marcello Colafigli. Ora, al di là del fatto che la Banda della Magnana non ha il cappello di mafia in qualche modo, ma stiamo parlando di una persona che diventa importante da conoscere, da contattare per i boss. Ma quello che viene da chiedersi però è se sicuramente il mondo delle carceri e quello anche dei manicomi giudiziari sono in un certo qual modo una specie di palestra, diventano anche un po' dei punti di riferimento per chi ci va, no? A monte però ci deve essere sempre stato un momento in cui volta per volta nelle singole famiglie, nei singoli clan c'è una formazione per poter sapere che con la perizia di quella malattia lì si ottiene questo tipo di beneficio. Ritorniamo al punto di partenza, Laura. Questo lo imparano sempre dal loro giro, diciamo, di medici compiacenti. Il professionista insegna al mafioso, quindi è una sorta di interscambio. Cioè, io ti insegno a dire cosa devi fare periodicamente per arrivare poi alla fine ad avere quel tipo di perizia. Nello stesso tempo però, a fronte di una perizia che io ti faccio, tu mi fai andare avanti e mi fai ottenere, diciamo, dei ruoli importanti anche all'interno di strutture. Anche questo dimostra, diciamo, l'ultima inchiesta giudiziaria in Calabria, per esempio. Gli si è avvicinato in un secondo, con una testata gli ha spaccato il naso e ha cercato di afferrarlo con le mani al collo. Era nel carcere di massima sicurezza di Viterbo, Giovanni Musarò, PM dell'antimafia Regina, quando è stato aggredito da Domenico Gallico, boss ergastolano di 'Ndrangheta, che tra l'altro per riciclare soldi si serviva pure del caffè Chigi nei pressi di Montecitorio, confiscato nel 2012. Anche 3 agenti penitenziari sono ora a processo per falso e omessa consegna in uno dei casi più inquietanti delle storie recenti di cronaca giudiziaria. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!